e vi ho visto spengere un lume stanco e sudato, e vi ho visto dopo averlo ammazzato fingere nel dolore, come statue di gesso dipinte volete la pace, come pirati assassini uccidete uomini e fate. E vi ho visto da chi non sapeva parlare né stare in silenzio, tra dighe di frasi paurose svuotarvi di senso. E vi ho visto da una madre morta che voleva diventare nonna, non vi bastava avergli rubato la sensibilità per un anello di paglia. In ogni cielo un nuovo vento, in ogni alba un nuovo giorno, in ogni angolo del mondo sta arrivando un nuovo tempo, in ogni campo stanno nascendo fiori di fiori, fiori di campo. Chi semina odio non avrà pace, chi semina pace vedrà la luce. E vi ho visto nell'oscuro sentiero di uno sguardo improvviso, nella natura selvaggia sapiente dimostrarvi innocenti, tra vergini savane appagati di un nuovo odio, tra nastri magnetici usati per frenare del tempo, tra giovani vulcani rinchiusi nel loro rancore, tra ghetti di città sprofondati in uragani di promesse, tra riserve di oro, petrolio, uranio, plutonio, mercurio, contenti del cumulo di bare volute dai vostri scempi. In ogni cielo un nuovo vento, in ogni alba un nuovo giorno, in ogni angolo del mondo sta arrivando un nuovo tempo, in ogni campo stanno nascendo fiori di fiori, fiori di campo. Chi semina odio non avrà pace, chi semina pace vedrà la luce. E vi ho visto come stanchi oratori trascinarvi un pensiero, e vi ho visto cambiare un sorriso in un lugubre racconto, e vi ho visto da buffoni di corte vincere medaglie, da cani da guardia liberi difendere un collare. E vi ho visto per una speranza meccanica incollati a una macchina. E vi ho visto in un film di guerra abbracciare l'atomica. Tra gigli viventi espandere miscele di miscugli. Tra cantici di gloria adulare leoni feroci. In ogni cielo un nuovo vento, in ogni alba un nuovo giorno, in ogni angolo del mondo sta arrivando un nuovo tempo, in ogni campo stanno nascendo fiori di fiori, fiori di campo. Chi semina odio non avrà pace, chi semina pace vedrà la luce. E vi ho visto tra tori da monta liberi di stuprare chi fugge, tra sentenze usate a dovere per lapidare liberatori, tra il marcio respiro affannato dei vostri polmoni, spalmare notizie fasulle sui vostri telegiornali. E vi ho visto, come pure i gabbiani, sgozzare dei pesci, come falchi nascosti in collina a seguire i miei passi. E vi ho visto, come palloni gonfiati, pregare alle stelle, fra maniaci assetati di spot, a rubare le più belle. In ogni cielo un nuovo vento, in ogni alba un nuovo giorno, in ogni angolo del mondo sta arrivando un nuovo tempo, in ogni campo stanno nascendo fiori di fiori, fiori di campo. Chi semina odio non avrà pace, chi semina pace avrà la luce.